e per chi l'avesse perso vi riproponiamo La Rosa Purpurea di Franco d'Assisi. Un saluto agli amici d'ascolto, Franco d'Assisti in studio, questa è La Rosa Purpura, all'ora di cinema settimanale di Radio 24. Settimana contrassegnata dalla fine del Festival di Cannes, che assegnerà i suoi premi domenica sera nel Grand Théâtre Lumière del Palais du Cinéma. Alcuni dei film di Cannes cominciano anche a rimbalzare nelle sale italiane. È una settimana anche di importanti uscite, allora andiamo subito a sentire quelli che sono i principali argomenti della puntata nei titoli di testa. Un giovane boss della New Economy. Un viaggio attraverso una città in tumulto. Il pericolo imminente di un agguato. Sono gli ingredienti di Cosmopolis, che dal Festival di Cannes arriva direttamente nei cinema italiani. Una riflessione sul capitalismo firmata David Cronenberg con Robert Pattinson. Tornano i Men in Black per la loro terza avventura. Per gli agenti Jay e Kay, Will Smith e Tommy Lee Jones, un salto indietro nel tempo per risolvere un'intricata questione e salvare il futuro dell'umanità. Il grande successo editoriale di Jonathan Safran Foer diventa un film. Molto forte, incredibilmente vicino. Storia di un ragazzino alla ricerca delle ultime verità sul padre morto nella tragedia dell'11 settembre, con Tom Hanks e Sandra Bullock. Ancora un'anteprima speciale per gli ascoltatori della Rosa Purpurea. Restate in ascolto e scoprirete come partecipare alla proiezione straordinaria di Attack the Block, uno dei film più originali e attesi dell'anno. Dov'è il tuo ufficio? Che cosa fai tu di preciso? Sei al corrente delle cose, è questo che fai. Tu riesci a ottenere informazioni e le converti in una materia orribile. Sono le domande che si pongono, che vengono poste, che si pone anche lo spettatore di fronte al personaggio principale protagonista di Cosmopolis, interpretato da Robert Pattinson. Cosmopolis, il nuovo lavoro di un grande del cinema come David Cronenberg, reduce da film non sempre fortunati, Dangerous Method passato a Venezia non lo era sicuramente. Qui invece Cronenberg ritrova la sua vena migliore, quella capacità di essere anche disturbante, sicuramente di sperimentare in maniera molto forte sotto il profilo visivo e narrativo. Alle spalle c'è un romanzo di Don DeLillo, scrittore che ormai è un classico metropolitano newyorkese del Bronx, iperrealista, paranoico. A lui il compito nel libro Cosmopolis di raccontare il disfacimento del capitalismo con una sorta di metafora che è il viaggio di un giovane boss della New Economy, Eric Baker, appunto interpretato da Pattinson, che in una giornata di grande caos a New York, dove c'è la visita del Presidente degli Stati Uniti, dove c'è un grande tumulto, ci sono manifestazioni di piazza proprio in concomitanza con questa visita, decide ugualmente sulla sua limousine bianca di attraversare la città per recarsi nel suo quartiere natale, semplicemente perché per aggiustarsi il taglio, cioè per sistemare il suo taglio di capelli, non curante del fatto che tra l'altro in questo percorso lui ne è convinto, qualcuno tenterà di ucciderlo. Rapporto dalla sede operativa. C'è una minaccia in corso, plausibile. Direi che attraversare la città oggi... Sai le minacce che ho avuto? Tutte plausibili. Eppure sono ancora qui. Non è rivolta a lei, è rivolta a lui. E che cazzo è lui? Il presidente. Insomma, di attraversare la città non se ne parla, a meno che non vogliamo passare la giornata in macchina. Sparano ancora i presidenti. Ci sono bersagli più interessanti di loro. E lui forse è proprio uno di questi bersagli più interessanti, almeno ne è convinto. E allora via con questo viaggio intervallato da alcune soste per consumare sesso con alcune sue amanti, per mettere in gioco il proprio matrimonio con la moglie fresca di anello al dito, ma ormai stanca di questo andazzo, e soprattutto per arrivare poi all'appuntamento fatale con questo killer che vuole avere la meglio, e soprattutto per cercare di derimere un po' la matassa che sembra ingarbugliata. Tutto questo mentre attorno a questa limousine, che si comporta come un acquario insonorizzata dalla quale non si sentono i suoni del mondo esterno, il mondo e la rivolta toccano, sfiorano la macchina del nostro giovane boss, senza mai però davvero riuscire a cambiare il corso delle cose. Afferra il concetto. Più è visionaria l'idea, più persone rimangono indietro. Questo è il motivo della protesta. Illusioni di tecnologia e ricchezza. La forza del cybercapitale che spedirà la gente a vomitare e a morire nelle fogne. Sai qual è il difetto della razionalità umana? Qual è? Finge di non vedere l'orrore e la morte con cui si concludono le sue macchinazioni. Questa è una protesta contro il futuro. Vogliono tenere a distanza il futuro. Vogliono normalizzarlo, impedirgli di far sparire il presente. Il futuro è sempre integro e immutabile. Nel futuro saremo tutti alti e felici. Ecco perché il futuro è destinato a fallire. Eccoci ancora qua, la Rosa Purpurea. Abbiamo detto appunto di Cosmopolis di David Cronenberg con Robert Pattinson. Fra poco lo sentiamo. Le voci della conferenza stampa di presentazione a Cannes, cominciando proprio con David Cronenberg. Come abbiamo detto, è un po' una costante di questo viaggio, di questa limousine bianca nella New York in tumulto, quella delle manifestazioni non global, potremmo dirle, che ricordano molto l'ambito di Occupy, di cui si è parlato molto, attorno a questa macchina del capo della New Economy. Su questo tema, su questo aspetto, sentiamo David Cronenberg. That to find ourselves filming riots, anti-capitalist riots in the streets of New York. Mentre giravamo la scena dei manifestanti anticapitalisti nelle strade di New York, la stessa sera uscì la notizia del movimento Occupy Wall Street, che è praticamente la stessa cosa. È stato strano. Era come girare un documentario, non un film, ma è stato assolutamente casuale. Questo David Cronenberg, la scena finale è davvero epocale, mi sembra di poter scomodare questo termine. Robert Pattinson, dopo il suo lungo viaggio, arriva a questa sorta di resa dei conti in una casa fatiscente con quello che è appunto l'uomo che lo vuole assassinare o che vuole appunto regolare qualche conto con lui. Quest'uomo che si presenta con uno strano asciugamano in testa, molto dimesso in questo ambiente decadente, è Paul Giamatti. Straordinario attore, lo dimostra anche in questo caso, e qui ci spiega come è stato recitare, creare un'alchimia, creare un magnetismo proprio insieme all'ex vampiro di Twilight. Sentiamo. C'è una sorta di isolamento che mi è piaciuto. C'eravamo solo io e Rob. Dovevo guardarlo tutto il tempo e innamorarmi dei suoi occhi. È stato bello. Robert Pattinson, infine, abbiamo parlato molte volte del suo tentativo di svampirizzarsi nella sua ancora breve carriera, un personaggio, quello del protagonista di Twilight, ancora troppo cucito addosso. Non c'era riuscito nel recente Bellamy, sicuramente esce con le ossa un po' più sane dalla prova Cronenberg, grazie anche, lo dice lui, a una sceneggiatura perfetta. I didn't want to change a single word, and I think that's you were quite strict on that as well, just even the punctuation. Non avrei cambiato una singola parola, nemmeno una virgola. E questo rende tutto più semplice. È come se stessi cantando una canzone invece di recitare. Se cerchi di fare qualcosa in più, di mostrare il tuo ego, è sciocco. Recitare non significa questo. It's silly at that point. Actors aren't supposed to be intelligent. Parliamo ancora di Cosmopolis, dopo aver ascoltato questa selezione delle voci della conferenza stampa. Un film che comincia in maniera... è un film, allora, molto molto impegnativo, questo sappiatelo, soprattutto chi magari vuole sfruttare l'effetto Pattinson. Penso a tante giovani adoratrici del vampiro, ecco, non è proprio quella roba lì, è tutta un'altra cosa, è un Cronenberg di quelli duri e puri, molto molto scritto, molto letterario. Anticipo un giudizio: il film complessivamente mi è piaciuto, trovo che sia più bello che riuscito in un certo senso. Certo, uno dei difetti che ha è quello che forse non è riuscito a scrollarsi di dosso la sua matrice letteraria del tutto. È un film che denuncia proprio le sue origini e non riesce ad affrancarsi, a diventare troppo universale. Forse Cronenberg manco lo voleva fino in fondo. Però dicevamo, è un film che dopo i primi 40 minuti molto molto selettivi, diciamo così, diventa davvero un film che ti trascina. È sicuramente un film di quelli che non si dimenticano per la capacità di creare un mondo che Cronenberg indubbiamente ha e che ha ritrovato qui alle prese con Don DeLillo. Chiedo conferma o smentita, ovviamente, a seconda delle sue preferenze, a Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Boris, ti è piaciuto questo Cosmopolis? Guarda, ogni minuto che passa mi piace di più. Credo che sia questa la migliore recensione che si possa fare, nel senso che è uno di quei film che ti lascia un po', come dire, schiaffeggiato, stordito alla fine, hai l'impressione, insomma, che non sia del tutto riuscito, anzi che non sia proprio riuscito, e poi però ti lavora dentro come fanno tra l'altro i migliori Cronenberg, e più ci pensi più ti piace. Di certo, come hai detto tu, è uno dei film più difficili che ho visto negli ultimi anni, è un film che ha tanto dentro di sé, probabilmente anche troppo, perché poi la critica di una società che è praticamente post-capitalista è fortissima, tanto da arrivare, come diceva Pattinson, quasi all'aderenza con la realtà, quasi alla vicinanza con la realtà, però è un film che, insomma, credo che sia veramente forse l'etichetta migliore è quella che hai detto tu, più bello che riuscito, racconta benissimo sia i pregi che i difetti. Boris, ti sentiamo un po' a sprazzi, speriamo che tu possa trovare una mattonella più fortunata, ma con questo noi comunque abbiamo dato l'idea di questo Cosmopolis di Cronenberg, che è tra l'altro appunto il film più importante di quelli che stanno arrivando, che arrivano, il primo anche di un certo spessore che arriva direttamente dal Festival di Cannes. A questo punto io voglio, prima di passare alla prossima proposta in questo fine settimana, aprire la prima parentesi sul nostro game, come sempre ogni settimana giochiamo insieme con i film della Rosa Purpurea. Potete vincere un DVD, un Blu-ray del film che dovete provare ad indovinare semplicemente scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica. Allora sentiamo la prima traccia. Allora perché Parigi? Le pesche. Fuori città a Montreuil c'è un campo di zingari famoso per la sua frutta secca, specialmente le pesche. E allora questa era la prima traccia, se avete già capito di che film si tratta, la Rosa Purpurea @radio24.it, inserite anche il vostro indirizzo per provare a sveltire le operazioni di spedizione, più tardi però vi faremo ascoltare un altro paio di tracce. Posso avere la vostra attenzione, per favore? Ok, sapete quando vostro figlio ha vinto una bustina col pesce rosso a scuola, voi non lo volevate dentro casa e l'avete buttato nel gabinetto? Beh, è quello che è successo. Sto diventando vecchio per queste cose. Posso immaginare come ti senti tu? Tornano gli agenti J e K nel terzo capitolo di Men in Black, che avete sentito, appunto, di cui avete sentito una piccola clip, proprio quella appunto del mostro che questa volta si trovano ad affrontare, questo enorme pesce, appunto, che sembra un'evoluzione di un pesciolino da acquario. Men in Black che ritrova i suoi protagonisti, Men in Black che costringe anche i protagonisti questa volta a una sorta di salto nel tempo, di salto indietro, sino direttamente agli anni 60. Ti ho promesso solo i segreti dell'universo. Ci sono segreti di cui l'universo non è al corrente. Kappa! Kappa! Non esiste nessun Kappa. È morto da più di 40 anni. Cosa? E allora, questo è un po' lo sbigottimento del personaggio di Will Smith di fronte all'idea di doversi confrontare con il suo compare un po' cambiato. Una terza parte, un terzo capitolo, un secondo sequel, chiamatelo come volete, che arriva a parecchi anni di distanza da quello precedente. Men in Black e Men in Black 2 erano stati sicuramente una coppiata di ferro della commedia innovativa e un po' irridente rispetto al sistema, che anche insieme a Mars Attacks, ad altri film della stessa epoca, una decina, quindicina d'anni fa, avevano sicuramente taggato il periodo. Oggi forse si presenta Boris con un po' più di stanchezza, insomma, qualcosa fa ridere, ma non ci trovo tutta questa novità, anzi sembra aver pescato qua e là da Ritorno al Futuro ad altri film di questo genere. Sono assolutamente d'accordo e credo infatti che forse la parte migliore del film è l'ultima, che è quella che non vuole far ridere. Per il resto Tommy Lee Jones ha una faccia ancora più marmorea rispetto al solito, anche rispetto a quello che il suo personaggio esige. Will Smith sembra uno di quei numeri 10, di quei giocatori pieni di talento nel calcio che però forse non hanno voglia di diventare grandi campioni. E qui si vede tutta la stanchezza e l'indolenza di un grande attore che però non ha molta voglia di recitare, almeno questa è l'impressione che si ha vedendo Men in Black. La sceneggiatura non è assolutamente di ferro come quella che Pattinson dice di aver trovato da Cronenberg, è un film che si dilunga spesso e che si riscatta alla fine quando entra in campo Josh Brolin, che è un grandissimo attore sottovalutato, e quando appunto c'è l'unica svolta, tutta la trilogia, l'unica svolta narrativa, che probabilmente è stata necessaria proprio perché questo film era particolarmente debole. E allora, ti seguivo assolutamente in questa cosa. È un film che troverà il pubblico di 10 e rotti anni fa? È difficile perché secondo me il pubblico di 10 e rotti anni fa rimarrà abbastanza deluso, perché è un pubblico non lontano da quel Ritorno al futuro che tu raccontavi, però era un pubblico anche molto giovane. Mi sembra un film che non ha il ritmo per tenere il, come dire, l'interesse del pubblico giovane attuale, e non ha la fedeltà ai due precedenti capitoli per tenere gli aficionados, quindi chi lo sa. Poi certo il battage pubblicitario è enorme e Will Smith richiama da solo Oceani di Folle. È interessante scoprirlo soprattutto in un momento come questo in cui le entrate al cinema crollano ancora di più rispetto ai due mesi precedenti. E allora questo era appunto Men in Black 3, fra poco parleremo di Molto Forte, Incredibilmente Vicino e anche di Silent Souls, che è un film molto molto interessante. Prima però voglio cominciare a farvi preparare, perché DVD Game certo, ma abbiamo anche un'altra delle nostre anteprime, quindi preparatevi, perché abbiamo la possibilità di mandare 30 dei nostri ascoltatori fra la puntata del sabato e quella della domenica all'anteprima romana che si terrà appunto martedì sera, quindi insomma siamo proprio molto molto vicini in questo senso alla UCI Cinemas Porta di Roma, l'anteprima di Attack the Block, Invasione Aliena. È un film molto interessante, passato dal Festival di Locarno, che arriva in sala in Italia, e quindi più tardi vi darò tutte le coordinate sempre attraverso la nostra mail per poter partecipare, però insomma cominciate a far l'idea, a guardare le agende, perché ci sarà questa possibilità. Ancora insieme alla Rosa Purpura, terza parte del nostro programma, fra poco parliamo ancora di novità in sala. Prima una piccola rettifica che voglio darvi subito, però, rispetto alla data dell'anteprima di Attack the Block romana a cui parteciperanno 30 dei nostri ascoltatori. L'anteprima è lunedì sera e non martedì sera, come ho detto in precedenza, scusate, ma martedì invece c'è nel pomeriggio una lezione di cinema con il regista Joe Cornish, che tra l'altro sarà anche presente all'anteprima di lunedì sera, che è quella su cui invece manderemo 30 dei nostri ascoltatori fra sabato e domenica a partecipare. Dovete solamente scriverci la Rosa Purpura @radio24.it, se venite da soli o accompagnati, vostro nome, ovviamente vostra email, riceverete poi per email, quindi controllatela nelle prossime ore, un coupon che servirà per entrare in sala. Tutto molto semplice. Vi ricordo ancora che l'anteprima è lunedì sera, lunedì sera però prossimo, parliamo del 28 maggio, alle 20:30, UCI Cinemas, Porta di Roma, Via delle Vigne Nuove, anteprima di Attack the Block, Invasione Aliena. Ne riparleremo fra poco nella quarta parte del nostro programma. Adesso invece parliamo di Molto Forte, Incredibilmente Vicino. Dopo la morte di papà ho trovato questa chiave nel suo armadio. Come trovo la serratura che apre? Che c'entra con mio padre? Te l'ho detto, non so niente di tuo padre. Trovare la serratura di questa chiave sarebbe un miracolo. Volevo farmi trovare qualcosa. Che cosa apre? E allora questi gli interrogativi di questo bambino, avete sentito il giovane Oscar Schell, protagonista, vero protagonista, sempre in scena di Molto Forte, Incredibilmente Vicino. Un film molto atteso questo, per tante ragioni. Intanto perché nella locandina campeggiano Tom Hanks e Sandra Bullock, anche se si vedono assai poco, soprattutto Tom Hanks. Come dicevo, il vero protagonista è Thomas Horn, il ragazzino. La storia è la storia di una mancanza, della mancanza di un padre morto nella tragedia dell'11 settembre, morto dentro una di quelle torri gemelle. La storia viene raccontata in maniera anche molto molto commovente, perché sentiamo le ultime telefonate, le tante telefonate di quella maledetta mattina fatte dal padre, dal grattacielo, per cercare di rassicurare sua moglie, suo figlio, con il quale aveva un rapporto, un legame davvero speciale. E questo, diciamo, il tenore drammatico di queste telefonate ovviamente è crescente. Il bambino non se n'è mai capacitato né liberato fino in fondo. Fino a qui non trova una chiave appartenente sicuramente al padre, ma che non si sa che cosa può aprire. E questo questa ricerca muove il viaggio di questo ragazzino attraverso la New York contemporanea per cercare la gemella di quella chiave, un lucchetto, una porta, una serratura che possa essere aperta e possa forse rivelare un'altra verità sull'amato padre che non c'è più. E questo viaggio diventa un viaggio attraverso la New York del dopo 11 settembre, attraverso personaggi che rivelano a volte spezzoni di vita che fanno rivivere appunto il personaggio del padre nella mente del ragazzino. La trama è molto bella, è davvero molto bella, e lo è grazie alla scrittura di Jonathan Safran Foer, che appunto ha firmato il bestseller, il libro edito in Italia da Guanda, ma il film forse non mantiene tutte le aspettative. Anche qui, oggi è una giornata così, ci sono film che non riescono fino in fondo ad affrancarsi dalla parola scritta, e questo è un film che denuncia un po' un certo artificio nella creazione dei personaggi. Boris, cosa ne pensi? Assolutamente d'accordo con te. Io, come tutti quelli che avevano letto il libro di Safran Foer, aspettavo con ansia il film. In qualche modo ho l'impressione, dopo averlo visto, che forse non ci sarebbe potuto mai fare un film da quel libro, perché il film formalmente non ha grossi difetti, se non forse quello di cercare una fedeltà nello spirito e nella costruzione al libro stesso, solo che raccontata sulle pagine quella storia, questo viaggio coraggiosissimo di un bambino che ha un senso di colpa fortissimo per qualcosa per cui non dovrebbe provare colpa, forse reso nelle immagini perde quella poesia, perde quella forza, perde quella potenza, e a quel punto bisogna magari affidarsi ai guizzi di Vonsido o a questo ragazzino che comunque è straordinario nel suo viaggio. Forse manca anche Sandra Bullock, che a mio parere è un'attrice molto efficace quando non deve dare moltissimo al film, cioè quando si deve mettere al servizio del film. Quando gli deve dare quel qualcosa in più non riesce a far fare il salto di qualità, e così ti trovi di fronte a un film che non puoi dire che sia brutto, ma che non ti ha emozionato, nonostante abbia almeno due scene, tra cui quella dell'ultima telefonata, che valgono il prezzo del biglietto, perché quella dell'ultima telefonata è davvero una delle scene più belle che ho visto al cinema, ma non basta incredibilmente a rendere bello il film, che rimane un film incompiuto proprio, ecco, forse l'aggettivo più giusto è proprio incompiuto. E allora, questo per quanto concerne Molto forte, incredibilmente vicino, un altro dei film importanti che escono in questo ricco fine settimana al cinema. Adesso prendiamoci un'altra parentesi per giocare insieme con il nostro DVD game e andiamo ad ascoltare la seconda traccia del film misterioso di oggi. Pensavo giocasse a ragno e mosca. Non sono un ragno, sono un gatto. Che tira di fioretto. Beve un liquido per l'imbalsamazione? Sì, ne vuole un bicchierino. Vi ricordo ancora, si gioca in Blu-ray anche questa settimana con l'alta definizione, La Rosa Purpurea, @radio24.it. Diteci di che film si tratta, diteci che film è, per provare a vincere una copia del Blu-ray il sabato e una la domenica in replica. Fra poco ci sarà l'ultima possibilità. Lasciavamo la nostra amata Neia. Ho letto che un'etnia è viva finché ricorda la propria lingua e finché custodisce le proprie tradizioni. Questo nostro rito è l'ultima cosa che lega Umeria alla vita. Che cosa resterebbe di noi se anche questo venisse dimenticato? Lasciavamo dunque la nostra amata Neia. Ignoravamo che sarebbe stato per sempre. Parole e musica di Silent Souls, un'altra delle novità di questo fine settimana, e novità assai assai interessante, reduce dal Festival del Cinema di Venezia settembre scorso, in cui fu in concorso e in cui ha vinto anche il premio della critica online. I critici delle varie testate online hanno decretato questo come il miglior film del concorso veneziano 2011. Questo premio tra l'altro sarà ritirato questa sera, sabato sera, a Milano, al al cinema Plinius, alla presenza del regista Alexei Fedorchenko, in un'anteprima di questo film, che è comunque in sala in 40 sale cinematografiche italiane. Grosso sforzo distributivo della piccola ma agguerrita microcinema, distribuzione di cinema di altissima qualità nelle sale, spesso col circuito digitale. In questo caso si tratta di pellicole, perché poi il film tra l'altro è girato e concepito anche in pellicola. Una storia con una poetica davvero straordinaria. Alla morte della moglie Tania, Miron chiede al suo miglior amico Aist di aiutarlo a seppellirla, non è la parola giusta, a darle l'addio definitivo, come da rituale della cultura Meria, un'antica tribù ugro-finnica del Lago Nero, della Russia centro-occidentale, secondo cui i corpi dovevano essere restituiti all'acqua. E quindi si intraprende questo viaggio con la salma preparata con grande cura, con grande amore, di questa donna, attraverso queste straordinari paesaggi fra steppa, foresta, laghi, fiumi, per arrivare al punto in cui ardere su una pira questa salma e regalarla di nuovo alle acque. E questo viaggio è anche l'occasione di un flashback nella vita di questi personaggi, ma anche della loro cultura. Il tutto con una visuale davvero straordinariamente poetica da parte del regista Alexei Fedorchenko, un film che ha fatto dire a Quentin Tarantino: film notevole in ogni sua forma, semplicemente meraviglioso. Questo è il tag, la headline che viene pubblicata anche sulla locandina, ma vi assicuro, un film che riconcilia con un certo tipo di cinema, affronta temi importanti, quello della, come dire, di cercare di non litigare col concetto inevitabile della morte, per esempio, no? L'aveva già fatto un altro bellissimo film giapponese qualche anno fa, Departures, forse qualcuno di voi lo ricorderà. Ecco, siamo un po' da quelle parti anche in questo senso, ma anche all'appartenenza, anche il senso delle radici, una parola che va scomparendo in un mondo globalizzato. E proprio su questo noi ci siamo fatti spiegare, con traduzione simultanea solamente poche ore fa, dal regista Alexei Fedorchenko, che abbiamo incontrato a Milano, quale sia appunto il concetto di radici nel mondo globale di oggi. Ну, я так скажу, что это для современного человека, как оказалось, это совершенно не важно. E vorrei dire questo, che per l'uomo moderno, contemporaneo, come si sta dimostrando, in qualche modo non è così importante il rispetto delle radici. Последние века, особенно 20 век, очень сильно обрубил корни. Особенно вот в России, например. Per esempio, il XX secolo, ma soprattutto in Russia, ha tagliato, come dire, la radice, le radici. Люди не знают своей истории, не знают историю своего рода. La gente in generale non conosce la propria storia e la storia della propria gente. И ничего, живут. E vivono. Вот. Но мне кажется, что интересней существовать, когда знаешь, кто жил на этой земле до тебя. A me è sembrato interessante questa riflessione, è comunque interessante sapere chi ha vissuto prima di te, laddove ti trovi. Я еще там в юности успел объездить своих родственников и узнать все, что они знали о своих предках. Io ho avuto la fortuna da ragazzo di girare, andare a trovare tutti i familiari che hanno potuto raccontare ognuno delle storie riguardanti chi era venuto prima di loro. No, e все равно я узнал только о пяти поколениях. Ma in ogni caso io, come dire, ho ricostruito al massimo 5 generazioni. Informazioni потоки таковы, что люди теряют индивидуальность и теряют свои корни, теряют свой язык. Però le circostanze sono tali da far perdere alle persone le proprie radici, la propria lingua, la propria memoria. К сожалению, этот процесс необратим. E che però è un processo irrefrenabile. И в наших силах только его немножко замедлить. Quello che noi possiamo fare nelle nostre forze rientra soltanto frenare questo processo. E questo era Alexei Fedorchenko, Silent Souls in 40 sale italiane, film assolutamente da non perdere. Io non ho che il tempo di salutare Boris Sollazzo, perché davvero il tempo per parlare delle novità è finito. C'è anche in sala La fuga di Marta, un altro cinema, un altro film molto interessante, però avremo forse modo e spazio la prossima settimana di inserirlo. Grazie Boris, appuntamento fra 7 giorni. Un saluto grande a te e a tutti gli ascoltatori. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, prima di parlare di un video, vi ricordo ancora la nostra anteprima. Scriveteci alla rosapurpurea@radio24.it per prenotarvi all'anteprima di lunedì sera 28 maggio alla cinema UCI o UCI Cinema, a seconda che lo pronunciate in italiano o in inglese, Porta di Roma, alle 20:30 in via delle Vigne Nuove, Attack the Block, Invasione Aliena, un film molto divertente e molto atteso di cui sentiamo una clip. Avete scoperto una specie sconosciuta alla scienza, col sospetto che non sia di origine terrestre, e gli avete sfondato il cranio. Piovono giù. Cosa piovono? Quei cosi. Sembra un meteorite. E non è come quell'altro. Questo è 3 volte più grosso. Che cos'era? Chi è l'alieno che invaderebbe un quartiere schifoso come questo? Ci hanno trovato. Come hanno fatto? Ci sono 160 porte nel blocco. Andiamo a recuperare le armi. Li facciamo a pezzi tutti. Vai, vai. Qualcuno sa dirmi che cosa sta succedendo? E per sapere che cosa sta succedendo dovrete andare all'anteprima alla UCI Cinemas Porta di Roma, 20:30 di lunedì 28 maggio. 30 nostri ascoltatori, fra quelli che ci ascoltano di sabato e di domenica. Basta scrivere alla rosapurpurea@radio24.it per dire di voler partecipare con il vostro nome e dirci se siete da soli o accompagnati, perché chiaramente questa possibilità è a esaurimento posti. Poi del film ne riparleremo al momento giusto dell'uscita, però insomma questa è un'occasione, tra l'altro la presenza del regista Joe Cornish, da non perdere, da non farsi scappare. A questo punto andiamo a dare invece un'occhiatina ai palinsesti televisivi, ai film in televisione della prossima settimana con gli amici di Film TV. È già in collegamento dalla redazione del settimanale di cinema e televisione Nicola Cupperi. Ciao Nicola. Ciao Franco e bentornati con le segnalazioni di Film TV. Allora, cominciamo subito con un bel film italiano di Matteo Garrone, L'imbalsamatore. Esattamente, L'imbalsamatore su Rai 5, martedì 29, in prima serata alle 21:15. Peppino è un tassidermista in una località del litorale casertano. Quando incontra il giovane Valerio, fa di tutto per prenderlo a lavorare con sé, stringendo con lui un rapporto sempre più ambiguo. Ma l'equilibrio fra i due viene rotto da Deborah, una ragazza licenziata da un'officina meccanica. Per questo film, Garrone, più che Lynch, ricorda Fassbinder e i suoi ambigui dolori. Quei dolori, quegli scarti, quell'ovvia incomprensione che impedisce ai tre protagonisti, naufraghi alla ricerca di un amore che possa giustificare il loro male di vivere, di interagire e relazionarsi se non in forma violenta. Un grandissimo film. E allora questo è L'imbalsamatore, ricordiamo l'appuntamento martedì 29 maggio Rai 5 alle 21:15. Invece un salto nel passato, in uno film che è diventato un classico del pacifismo e dell'umorismo insieme, ovvero Il dottor Stranamore di Stanley Kubrick. Esattamente, su Rete 4, giovedì 31 alle 3:05, Il dottor Stranamore, ovvero Come imparare a non preoccuparmi e ad amare la bomba. Convinto che sia in corso un complotto comunista, il generale Ripper, uno psicopatico, scatena un'offensiva di B-52 verso la Russia. Non sa però che alla prima esplosione verrà innescato l'ordigno fine del mondo. Un classico del cinema antimilitarista nel quale Stanley Kubrick, che si ispira a Swift, dispiega tutto il proprio pessimismo in un meccanismo perfetto, brutale ed esilarante, nel quale riso e angoscia si succedono senza una soluzione di continuità. In questo caso Peter Sellers offre una delle prove più incredibili della sua esaltante carriera, con una tripla performance veramente da urlo. Vi rinnovo l'appuntamento allora, Il dottor Stranamore di Stanley Kubrick, giovedì 31 maggio, Rete 4 alle 3:05 di notte, ovviamente videoregistratori puntati. Grazie alla redazione di Film TV e a Nicola Cupperi. Grazie a voi e a risentirci la settimana prossima. Ebbene, allora a questo punto facciamo ascoltare la terza e definitiva traccia del DVD Game di oggi. Posso far notare che il camino nel salotto di Baker Street ha bisogno di una bella spazzata. Sapevi che la carrozza da Nolo su cui sei arrivato aveva una ruota danneggiata? Sì, alla sinistra. Ed è palese per l'intelligenza più rozza che hai acquistato recentemente un nuovo arco per il tuo violino. Stesso arco, nuove corde. Beh, questo botta e risposta è abbastanza identificativo del rapporto che c'è fra i personaggi che animano questo film molto molto divertente. La Rosa Purpurea, @radio24.it, il titolo, il vostro indirizzo per provare a vincere il Blu-ray di questo film. Come hanno fatto la settimana scorsa Franco Santonastaso di Padova e Marco Mussomeli di Bolzano, che hanno indovinato questo film? Non stava in posizione eretta, era piuttosto incurvato, così. Davvero? Poggiava tutto il peso sulle nocche, vedi? Sulle nocche, oh. Esatto, come un gorilla. Straordinario. Ah, era strabiliante. Piegava i gomiti in fuori, così, lui cammina così. Oh, ho capito, come la zia Isabel. Si trattava del disneyano Tarzan, un altro dei classici Disney dell'animazione che arriva in alta definizione Blu-ray e del quale ci parla come sempre il nostro Claudio Poffi, che saluto. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Allora, l'edizione Blu-ray di Disney è di gran lunga superiore al precedente DVD. C'è qualche momento, comunque raro, in cui durante la visione si incontrano colori meno compatti e situazione più evidente su schermi di grandi dimensioni. L'audio è Dolby Digital 5.1 canali, sia per l'italiano che per l'inglese, comunque di buona resa. Ci sono alcuni extra, con lo storyboard una scena eliminata relativa a un possibile inizio alternativo, un video musicale di Phil Collins e un breve documentario sugli animali presenti nel film. Assente il resto degli extra presenti nel secondo disco dell'edizione DVD, ancora recuperabile sul mercato, i collezionisti sono avvertiti. Fra le novità in videoteca, invece, reduce dagli scoppiettanti Oscar, il film che ha fatto riscoprire un po' il sapore del muto, stiamo parlando di The Artist. Nella Hollywood di fine anni 20, George Valentine è una star del cinema muto. A una premiere di un suo film conosce una bella ammiratrice, Peppy Miller, che in seguito rincontrerà sul set come comparsa. L'attrazione che nasce tra i due non porterà inizialmente a nulla. È il 1929 quando il sonoro arriva nelle sale, ma Valentine rifiuta la svolta tentando di rilanciare il muto con un film in cui impegna tutti i suoi averi. Persa la scommessa al botteghino, finito sull'astrico, abbandonato dalla moglie, l'ex divo sull'orlo del suicidio ritroverà Peppy Miller, oramai osannata attrice, grazie alla quale ricomincerà a vivere e a lavorare. Agli antipodi della tecnologia, The Artist dimostra quanto il cinema muto in bianco e nero possa coinvolgere ed emozionare, proprio come le pellicole di oltre 80 anni fa. Da BIM e Comedia, l'edizione DVD, ma c'è soprattutto il Blu-ray, quest'ultimo che noi ci sentiamo di consigliare caldamente, di incredibile resa e incisività del glorioso bianco e nero per uno spettacolo da sala cinema. Unica traccia di ITS ad alta risoluzione con l'accompagnamento solo musicale e come extra segnaliamo due focus sulla lavorazione e gli errori sul set e un'intervista regista. Torniamo dietro di qualche anno invece in un territorio martoriato come quello della Bosnia con Welcome to Sarajevo. È preoccupata per la sicurezza dei bambini? Sì, certamente. Però abbiamo un'ora di cessate il fuoco in tutta Sarajevo e abbiamo un permesso delle autorità di tutte le zone di portare questi innocenti in Italia. E qual è l'alternativa? Lasciarli qui a morire? Le madri dei bambini che partono oggi pensano che sia più rischioso restare che partire. L'avventura di una troupe televisiva britannica che ha come base la città di Sarajevo durante la guerra in Bosnia nel 1992. Attraverso gli occhi di giornalisti e cineoperatori, tutta la guerra in faccia, senza filtri, tra fiction e immagini di repertorio, le corse per le strade per non venire colpiti dai cecchini, il tentativo di salvare degli orfani, il desiderio di gridare al mondo tutto l'orrore del conflitto civile nella speranza di suscitare anche il minimo interesse mediatico. Una delle opere più emozionanti e coinvolgenti del regista Michael Winterbottom è finalmente disponibile in DVD da Minerva Raro Video. Sono immagini di qualità superiore, tracce Dolby Digital, due canali italiano e inglese che contengono entrambe mescolanze di dialoghi del posto e ci sono sottotitoli parziali. Come extra, un'intervista al regista, ma all'interno della confezione c'è anche un libretto di approfondimento. Grazie Claudio, appuntamento alla prossima settimana. Un saluto, a presto. Allora, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, giusto il tempo per ricordarvi l'anteprima di Attack the Block, Invasione Aliena, lunedì 28 maggio, UCI Cinemas, Porta di Roma, in via delle Vigne Nuove. 30 nostri ascoltatori potranno partecipare gratuitamente a questa anteprima di questo film passato al Festival di Locarno con grande successo, alla presenza del regista Joe Cornish. Per prenotarsi basta scrivere alla Rosa Purpurea @radio24.it e dirci se sarete da soli o accompagnati. Per i primi 30 nostri ascoltatori ci sarà la possibilità di partecipare a questa anteprima. Noi finiamo qui la nostra trasmissione, grazie a Giorgio De Luca in redazione, a Carmelo Lauricella in regia. Un saluto da Franco D'Assisti.